Bene, allora darei inizio a questa serata. Vi saluto e vi ringrazio di essere qui con noi per questo nuovo appuntamento. Abbiamo come ospite questa sera il professor Bonoldi di Storia Economica presso l'Università di Trento, che ci accompagna già dalla primavera del 2023 con questo ciclo di conferenze Noi e le Storie. È un ciclo che è stato concepito per trascinare, accompagnare la biblioteca, ecco, verso un percorso più storico e diciamo anche per invitare il pubblico ad approfondire certe tematiche che vengono affrontate con questo stile di conferenza, utilizzando poi anche il materiale e i libri che vengono messi a disposizione sia in formato cartaceo che digitale da parte della biblioteca provinciale. In questo progetto vediamo anche come partner l'intendenza scolastica, oltre che l'Università di Trento, perché valgono anche i credits per gli insegnanti che decidono di frequentare e di partecipare a queste iniziative. Avevamo iniziato appunto nella primavera del 2023, di questo anno che ormai si sta concludendo, con una conferenza insieme al professor Bella Barba e sempre il professor Bonoldi, che ci aveva aiutato a partire col progetto, e in quel caso avevamo affrontato il tema della ricerca storica e della ricerca in un mondo globale, ecco, come affrontare in una maniera nuova, con metodi nuovi, la ricerca. Ci siamo poi affacciati al mondo medievale insieme al professore Giuseppe Albertoni quest'autunno, all'inizio proprio della ripresa delle nostre attività, le nostre iniziative serali. Poche settimane fa è stata la volta della storia greca, quindi un ritorno al mondo classico insieme al professor Gian Giulio e mi sembra ci fosse, scusate, ecco, Proietti, esatto, scusate, ma non ci vedo bene. E oggi concludiamo questa carrellata di iniziative, queste conferenze interessanti, con il professor Bonoldi e il valore e il governo della moneta, l'inflazione ieri e oggi. Quindi il titolo è alle mie spalle. Vi lascio in compagnia del nostro relatore, vi ringrazio di essere con noi. Ricordo che la biblioteca va avanti fino a Natale con alcune iniziative. Una di queste che vi segnalo è mercoledì il gruppo di lettura, che avrà per così come argomento Simone Weil, e poi giovedì e venerdì avremo in questa sala gli allievi e le allieve dell'Istituto Musicale che ci accompagneranno nell'attesa del premio Claudio Augusta con alcune musiche, canzoni e alcuni filmati che proietteremo della storia di 20 anni di premio per le tesi di laurea. Lunedì invece alle ore 17:30 faremo la vera e propria cerimonia a cui siete tutti invitati e volentieri vi vorremmo ritrovare per farci gli auguri di Natale. Grazie Andrea intanto e buona serata a tutti voi. Grazie ancora per la collaborazione. Grazie. Bene, grazie molte Valeria per questa presentazione, grazie per l'ospitalità. Tu hai detto che questo ciclo serve per trascinare la biblioteca, non c'è niente da trascinare, perché in realtà voi fin dall'inizio avete curato questa raccolta della documentazione della memoria storica del territorio, che è un servizio che chi si occupa di storia insomma apprezza molto, quindi non c'è veramente niente da trascinare in questa vicenda. Come ha già detto Valeria, e molti di voi hanno partecipato, questo è stato un ciclo in cui si sono presentati dei manuali sostanzialmente che cercano di proporre quelle che sono le ultime tendenze nell'ambito delle grandi questioni storiche relative, abbiamo visto l'età moderna, l'età medievale e la storia greca nell'ultimo incontro che abbiamo avuto. Quella di oggi è un po' un outsider, se vogliamo, un incontro di natura diversa, perché prendo lo spunto da un lavoro di tipo più strettamente accademico, scientifico, che è una raccolta che poi vi presenterò di saggi relativo a un argomento particolare come quello dell'inflazione dopo la Prima Guerra Mondiale nell'area austro-ungarica e nell'area italiana, che è frutto di un progetto di ricerca che abbiamo portato avanti con un gruppo di studiosi e studiose internazionali qualche anno fa. Per parlare però, per in qualche modo rispondere a quello che è il titolo di questo ciclo, che è Noi e le Storie, cercare di vedere come questa analisi storica possa essere utile anche per interpretare un fenomeno di assoluta attualità oggi come quello dell'inflazione. Quindi questo è quello che cercherò di fare insieme a voi oggi, e mi scuserete se magari nell'introdurre la questione dell'inflazione ripeterò delle cose che voi sapete benissimo già meglio di me. Ecco, allora, uscendo da questa biblioteca e avviandosi verso la stazione, a un certo punto è inevitabile incappare in un enorme cantiere, che è una delle opere di revisione urbanistica più importanti che Bolzano ha visto negli ultimi 30-40 anni. Su questo cantiere adesso pende una spada di Damocle piuttosto importante. L'imprenditore che ha dato via a questa operazione si trova in una situazione di grave difficoltà, come sappiamo tutti, ha portato i libri in tribunale, alcune società sue sono ormai in liquidazione sostanzialmente, e molti di noi si sono domandati: ma non ci lascerà mica il buco in mezzo alla città con il cantiere da finire? Allora, il caso di Benco, della Signa, insomma della sua attività, è un caso tipico di quello che può succedere in un periodo di inflazione. Allora, su Benco si è abbattuto il fuoco incrociato, da un lato del rialzo dei prezzi delle materie prime e comunque dei materiali di costruzione che lui utilizza nei suoi cantieri, e dall'altro la reazione che i governi hanno messo in campo per combattere l'inflazione, cioè il rialzo dei tassi di interesse. Per chi lavora nel settore immobiliare, i crediti di lungo periodo sono un fattore importante per finanziare la propria attività. Benco ne aveva contratti parecchi. Anche chi deve comprare un immobile fa dei mutui, come sappiamo tutti noi che bene o male siamo andati incontro a queste cose. E se il tasso di interesse dei mutui sale, ci penso due volte prima di prendere un appartamento. Mescolando queste cose, insomma, Benco si è trovato in questa situazione di difficoltà e vedremo come se ne uscirà. Questo solo per farci capire, ma poi tutti noi nella vita di tutti i giorni ci siamo resi conto, insomma, qual è stato l'impatto dei rincari che negli ultimi anni abbiamo affrontato. Allora, per iniziare a parlare insieme a voi di inflazione, beh, innanzitutto questa immagine che ho scelto come immagine introduttiva del nostro incontro è una delle tante fotografie che raccontano di quello che succedeva in Germania nel 1923. Nel 1923 la Germania è andata incontro a un'inflazione terribile che ha portato il valore del marco a crollare verticalmente, al punto che il marco non valeva più nulla e questi ragazzini potevano permettersi di fare i loro giochi utilizzando pacchi di marchi ormai assolutamente privi di valore. Un po' di citazioni di personaggi più o meno famosi che hanno parlato di inflazione in passato. Ho cercato di essere politicamente equilibrato. Abbiamo un liberale di sinistra, mi perdonerete la definizione, come Keynes, un liberale di destra come von Mises, un marxista-leninista come Lenin e poi il mio filosofo di riferimento, Ugo Tognazzi, sotto come ultimo. Allora, cosa diceva Keynes di questa cosa? Keynes diceva: attraverso un processo continuo di inflazione il governo può confiscare, e questo è un aspetto interessante di cui bisogna tener conto, qual è il significato politico del processo inflattivo? Può confiscare in segreto e senza farsi notare una parte importante della ricchezza dei suoi cittadini. E poi cerchiamo di capire perché. Mises cosa dice? La cosa più importante da tenere a mente è che l'inflazione non è un atto di Dio, che l'inflazione non è una catastrofe naturale, un'epidemia che arriva come la peste, l'inflazione è una politica. Quindi Mises sottolinea il fatto che spesso l'inflazione è qualcosa di voluto, qualcosa che i governanti scelgono in maniera voluta, in maniera decisa. Lenin invece sottolinea il ruolo rivoluzionario che l'inflazione può avere. Il suo obiettivo era quello di distruggere il ceto dirigente precedente che c'era in Russia, e per fare questo si poteva utilizzare l'arma dell'inflazione. L'arma dell'inflazione può essere utilizzata per cancellare la borghesia. Il ceto medio che risparmia è quello più colpito dall'inflazione. E dice: il modo per annientare la borghesia è quello di schiacciarla tra le macine della tassazione da una parte e dell'inflazione dall'altra, e questa è una strategia che in effetti poi i bolscevichi in Russia hanno utilizzato. Ultimo, Ugo Tognazzi, che dice: l'inflazione significa essere poveri con tanti soldi in tasca. Abbiamo tanti soldi in tasca, ma questi soldi valgono molto meno di prima, posso comprarci molta meno roba. Insomma, tutti in qualche modo sottolineano uno degli aspetti dell'inflazione è quella che ci tocca più da vicino, no? che sperimentiamo tutti i giorni. Allora, cos'è l'inflazione? Diamo un po' di definizioni in modo tale da orientarci poi in quello che succede, che andremo a vedere poi nei diversi periodi storici. Allora, come definizione un po' accademica, un po' ingessata, insomma, l'inflazione è sostanzialmente la perdita di potere d'acquisto della moneta. Io con la stessa quantità di moneta oggi compro meno beni di quelli che compravo uno, due o tre anni fa, e questo ce ne siamo accorti tutti in quanto qualche modo andiamo a fare la spesa e i beni sono rincarati, oppure succede qualcosa di un po' più subdolo, come è successo a me stamattina ho aperto la mia confezione dei biscotti preferita per la prima colazione, biscotti integrali, e li ho versati nel solito contenitore che utilizzo. Fino a qualche mese fa non riuscivo a riempire il contenitore, cioè anzi no, lo riempivo e me ne avanzavano ancora. Oggi invece l'ho riempito tutto e non mi avanzava più niente. Guardo sulla confezione identica, prezzo uguale ma contenuto diminuito, downsizing come dicono gli inglesi. Esatto, sì, le strategie sono moltissime, no? Da questo punto di vista, ma ci stanno a dire la stessa cosa, con gli stessi soldi di prima compro meno roba, no? Così ce ne accorgiamo di meno forse. No, no, il contenitore è sempre quello testato, utilizzato negli anni, per cui... Ecco, lei che ha memoria, no? di questa cosa, le cose andavano così. E allora, questa è un'esperienza che abbiamo fatto tutti. Dal punto di vista tecnico, però, è importante capire come viene misurata l'inflazione, perché tutti noi abbiamo in realtà una percezione diversa dell'inflazione. L'abbiamo perché ognuno di noi ha delle preferenze diverse, ha dei consumi differenti, insomma. Io, se qualcuno è vegano, astemio e appassionato di motonautica, avrà una percezione dell'inflazione molto diversa dalla mia, che non sono né vegano né astemio e né appassionato di motonautica, perché consumo cose diverse. Allora, come si fa a misurare l'inflazione al consumo a livello nazionale? Poi, per fare i confronti, si prende un paniere rappresentativo di beni, quello che la famiglia media italiana, secondo l'Istituto di Statistica, consuma, e su quello, sull'andamento dei prezzi di quei beni, viene misurata poi l'inflazione, che secondo l'Istat, appunto, nel novembre del 2023 dice che l'inflazione acquisita per il 2023 è pari al 5,7%. Ok? Noi compriamo oggi il 5,7% in meno in termini di valore dei beni che compravamo una volta. Allora, questa inflazione, che è un fenomeno che comunque è presente sempre in misura maggiore o minore nelle economie, e vedremo non soltanto nelle economie contemporanee altamente monetarizzate, ma lo è stato anche in passato, secondo una classificazione può essere strisciante fino al 5%, galoppante quando è tra il 5 e il 20%, noi oggi siamo in questo regime qui di inflazione galoppante, oppure arrivare, come nel caso della Germania di Weimar, che abbiamo visto, a essere iperinflazione oltre il 20%, quando succedono cose che mettono totalmente in crisi il sistema economico. Allora, qual è la causa che sta dietro all'inflazione? Quali sono i fenomeni che causano l'inflazione? Ce ne sono diversi, a volte agiscono indipendentemente uno dall'altro, a volte agiscono insieme e amplificano questi effetti. L'inflazione può essere un'inflazione da domanda, cioè i prezzi possono salire quando il pubblico, per una percezione, per la percezione di stare meglio di prima, o per il fatto di avere aspettative positive per il futuro, comincia a consumare di più. Le imprese fanno fatica a produrre i beni che servono e quindi i prezzi inizialmente salgono. Questa è un'inflazione, ma è un'inflazione buona, tendenzialmente, perché significa comunque che c'è un maggiore benessere ed è un segnale del fatto che in realtà l'economia è in salute. Quello che succede è che nel giro di breve tempo le imprese si adattano a questa domanda aumentata da parte del pubblico e quindi questa tensione sui prezzi tende a diminuire. È quello che è successo, per esempio, alla fine della pandemia. Alla fine della pandemia si sono riaperte le imprese, si sono riaperte le attività economiche, le catene di trasporto, di logistica, eccetera, sono rimaste chiuse per un po' di tempo. Ci è voluto un po' prima che si riuscisse a ritrovare l'equilibrio solito all'interno del sistema economico. Ma questo era un indice di ripresa, quindi un indice positivo. Quindi un'inflazione moderata, costante nel tempo, senza troppe oscillazioni, è un indice tutto sommato del fatto che le economie vanno bene. Poi c'è un altro tipo di inflazione, che è l'inflazione da costi invece. Quello che può succedere è che a un certo punto all'interno del sistema economico, per un qualche accidente, una materia prima, un semilavorato che è fondamentale per il funzionamento del sistema economico, vede aumentare i costi. E questo costo poi si riflette sul costo finale delle merci. Il caso più eclatante è il costo dei combustibili, no? Il costo delle materie prime energetiche. Quando aumenta il costo delle materie prime energetiche, il costo di tutte le merci aumenta, perché le materie prime energetiche vengono utilizzate nella produzione, nel trasporto, e quindi alla fine si riflettono sul costo finale. Ed è quello che è successo negli anni 70 con le crisi petrolifere, che hanno causato un'inflazione molto importante, e quello che è successo recentemente con la guerra in Ucraina, perché la guerra in Ucraina ha comportato, lo sappiamo, una importante disarticolazione del mercato delle materie prime, in particolare del gas naturale, che sappiamo è una componente importante del mix energetico che usiamo in Europa. Poi c'è la terza, forse la meno nota, ma importante causa di inflazione, che è l'inflazione monetaria. Cioè che l'inflazione è dovuta al fatto che in un sistema aumenta la quantità di moneta in circolazione, e più moneta in circolazione c'è, meno ogni singolo pezzo di moneta ha valore nell'acquistare le merci. E questa strategia è una strategia che i governi spesso usano per finanziare la spesa pubblica. Quindi la troviamo, per esempio, tipicamente nei periodi bellici. Quando c'è guerra e quindi io ho bisogno di avere risorse per finanziare la spesa pubblica crescente, allora quello che faccio spesso è stampare moneta a un ritmo molto più rapido rispetto a quello che faceva prima. Ma è chiaro che così facendo questa moneta perde valore d'acquisto all'interno del sistema. Ed è anche una cosa che è successa storicamente nel Cinquecento, quando nel 500 in Europa, nel 1500, i prezzi sono cominciati a salire. Sono cominciati a salire come non era mai successo prima, no? Se non nel periodo romano, e poi andremo a vedere. Allora, perché sono saliti i prezzi nel 500 in Europa? Cos'è successo? Cos'è che ha cambiato la quantità di moneta in circolazione? È cominciato ad arrivare l'argento dall'America. L'argento era la base del sistema monetario dell'epoca, perché voi sapete che le monete erano... il valore delle monete era definito dal contenuto di metallo prezioso che avevano. Le miniere europee si trovavano in difficoltà perché non erano in grado di tenere il passo della crescita dell'economia e quindi mancava moneta. La scoperta dei giacimenti in America centrale, ma soprattutto nell'America meridionale, nella zona di Potosí, all'epoca era Perù, oggi è Bolivia, che gli spagnoli poi portavano in Europa, questo ha consentito di avere un'enorme quantità di moneta in circolazione. Questo però si è riflesso anche sulla crescita, sull'aumento dei prezzi che c'è stato all'epoca. Quindi vedete, sono diverse, no? Diversi modi con cui l'inflazione può essere generata. Possono essere costi, possono essere domanda, può essere una causa monetaria. Allora, è dannosa l'inflazione? È dannosa sì e no. Non lo è se l'inflazione resta relativamente bassa, relativamente costante nel tempo. No, il 2% famoso, che è l'obiettivo che le banche centrali si pongono, in particolare la Banca Centrale Europea si pone di inflazione, può essere, appunto, vi dicevo, indice del fatto che c'è una domanda, c'è un'economia dinamica, c'è una percezione di benessere da parte della popolazione. Ma se l'inflazione invece è più alta e tende poi anche a cambiare il suo valore nel tempo, beh, crea dei problemi piuttosto consistenti. Uno fondamentale, quello che percepiamo più di tutti anche come consumatori, come cittadini, è quello di una redistribuzione del reddito. Perché l'inflazione colpisce duramente soprattutto chi percepisce un reddito fisso, quindi salariati, pensionati, che vedono, non potendo agire, no, sul loro reddito, vedono la capacità d'acquisto, no, dei propri redditi diminuire nel tempo. Poi magari viene adattato successivamente, però per un certo periodo di tempo io vedo che per fare la spesa ho bisogno di una parte maggiore del mio reddito rispetto a prima. Ma non c'è solo questo aspetto qui. La redistribuzione avviene anche a favore dei debitori. Chi ha contratto un debito, in realtà, è avvantaggiato dall'inflazione, perché ripagherà una somma che ha meno valore di quella che aveva preso in prestito in precedenza. E qui c'è il gioco che vi dicevo, per cui spesso i governi sono interessati all'inflazione. Perché chi è il più grande soggetto debitore che c'è nelle economie di oggi? Sono i governi, in particolare in Italia, sappiamo, c'è un debito pubblico molto elevato. Quando aumenta l'inflazione, il valore reale del debito pubblico cala e quindi i soldi che a scadenza dei BTP il governo ripagherà ai cittadini avranno un valore, un potere d'acquisto inferiore rispetto a quello che era stato contratto in precedenza. Ultimo elemento per cui quindi un'inflazione crea una distorsione, no, importante all'interno del sistema che colpisce una parte significativa della popolazione. Ultima, ma non meno importante tra questi effetti dell'inflazione è il fatto che l'inflazione agisce direttamente sui prezzi, cioè su quello che è l'indicatore fondamentale che sta alla base di tutte le decisioni economiche, le nostre scelte in termini di risparmio, investimento, previdenza, investimenti immobiliari, eccetera, sono tutte fatte sulla base del valore dei prezzi. Quindi tutto il sistema economico in realtà trova il suo equilibrio a partire da quell'informazione fondamentale che sono i prezzi. Ma se il valore che è rappresentato da questi prezzi è un valore che oscilla e cambia nel tempo, io introduco nel sistema economico un fattore di incertezza che rende queste decisioni molto difficili. Quando c'è l'inflazione nessuno vuole investire e chi vuole consumare lo fa in modo molto diverso rispetto a prima, perché c'è questa situazione di incertezza e questo è un costo veramente pesante che i sistemi economici pagano. Ecco, quindi vedete, c'è un insieme di elementi che fa sì che l'inflazione sia un fenomeno patologico, un fenomeno che causa delle gravi distorsioni all'interno del sistema. E perché tocca proprio quella che è, diciamo, l'elemento cruciale, fondamentale di ogni relazione economica, che è la moneta. No? La moneta che noi utilizziamo come mezzo di scambio, come mezzo di pagamento per soddisfare i nostri bisogni, che utilizziamo anche come riserva di valore, quello che mettiamo da parte per il momento in cui ne avremo bisogno, e che usiamo come misura del valore, come definizione del valore di tutte le cose. Allora, noi immaginiamo di usare il chilogrammo per fare i nostri acquisti e che questo chilogrammo un giorno valga 900 grammi, il giorno dopo ne valga 1100. Insomma, questo creerebbe una situazione di grave imbarazzo, di grave difficoltà. Alla fine finiamo per non utilizzarla più questa misura, no? Ecco, se succede una cosa analoga con la moneta, questo ci crea dei gravi problemi. Allora, il modo come l'inflazione ha agito, ha inciso sulle attività umane dipende molto dal sistema monetario, cioè da come funziona il mercato della moneta. Allora, avevo detto, fino grosso modo all'Ottocento, al 1800, sostanzialmente cosa definiva il valore della moneta? Il valore della moneta era definito dal contenuto di metallo prezioso che la moneta aveva. Le monete che circolavano erano composte da leghe che avevano una maggiore o minore quantità di un metallo prezioso al loro interno, che poteva essere argento o oro tipicamente. Ecco, questa quantità di metallo definiva il valore della moneta. Oh, questo è un sistema che funzionava bene. Perché? Perché io ero sicuro del valore che la moneta aveva proprio per il fatto che questa moneta era composta da una merce, da un metallo, che aveva un valore stabilito sul mercato. Quindi che la moneta fosse una moneta veneziana, del Granducato di Toscana o di una città imperiale tedesca, io potevo cambiarla tranquillamente quando sapevo quant'era il valore, la quantità di metallo prezioso contenuto nella moneta stessa. E questo lo vediamo, io l'ho trovato nei documenti delle fiere di Bolzano, voi sapete, fiere internazionali, no? Nel quale si trovavano mercanti che venivano dalla Germania, che venivano dalla penisola italiana, tutti scambiavano le merci fra di loro, i contratti erano redatti in fiorini, ma i fiorini erano solo una valuta di conto che veniva utilizzata. In realtà, poi andando a vedere, no, nei processi quello che succedeva, quando questi andavano effettivamente a pagare, usavano una varietà enorme di monete. C'erano dentro le doble di Spagna, gli ungari, c'erano gli scudi del regno dello Stato della Chiesa, c'erano i zecchini, c'erano i ducati, insomma, usavano una varietà di monete infinita. Ma questo non era un problema per i mercanti, perché sapevano esattamente qual era il contenuto in termini di argento o di oro di queste monete, quindi se le scambiavano liberamente fra di loro. Quindi questo in realtà è un sistema che funzionava abbastanza bene. Aveva però un problema piuttosto grosso. Uno era che è scomodo portarsi in giro una grande quantità di monete quando devo fare gli scambi. No, andare in giro con i forzieri d'oro, insomma, non è proprio il massimo in termini di comodità e sicurezza, e quindi si cominciano a utilizzare degli strumenti diversi, si scrivono lettere di cambio, per esempio, e cose di questo genere. Ma l'altro aspetto, che forse è in termini di funzionamento generale del sistema economico ancora più complicato, è il fatto che la quantità di moneta è limitata da quello che io riesco a estrarre dalle miniere. se il sistema economico cresce, ha bisogno di nuovi soldi, io non trovo nuovi filoni d'oro, nuovi filoni d'argento, beh, non riesco ad avere una quantità di moneta che risponde a questo nuovo bisogno di scambi che c'è all'interno di un sistema. E questo rappresentava un problema molto, molto rilevante. Allora, come si risolve questa cosa? Si è risolta con quello che è stato un sistema che ha caratterizzato una parte importante della storia europea, e non solo europea, tra il 1870 e la Prima Guerra Mondiale, ma anche dopo, che è il cosiddetto gold standard. Che cos'era il gold standard? Il gold standard era un sistema dove non si utilizzavano più le monete, non soltanto le monete, ma anche le banconote, no? Perché le banconote sono più comode, si possono utilizzare più liberamente, si possono anche stampare in quantità maggiore, no? Rispetto a prima, ma il valore delle banconote era definito dalle riserve d'oro che stavano nei forzieri delle banche. Quindi una banconota era sostanzialmente un buono con cui io potevo andare in banca e mi davano l'equivalente in termini d'oro. Alla fine avevo lo stesso vantaggi che aveva il sistema precedente, senza però averne gli svantaggi, perché le banconote erano più comode da usare, io avevo un po' di variabilità, gli stati potevano ampliare l'offerta di moneta quando c'era bisogno e al contempo avevo la sicurezza del valore delle monete stesse, questo e delle banconote stesse. Questo sistema ha funzionato molto bene, perché il periodo che va dal 1870 alla Prima Guerra Mondiale è stato nel mondo un periodo di crescita straordinaria. Se pensate a un periodo in cui sono state inventate l'elettricità, il motore a scoppio, la chimica organica, il telegrafo, il telefono, insomma tutta una serie di cose che stanno alla base della modernità come la concepiamo noi oggi, in cui ci si scambiava veramente, ci scambiavano i beni veramente a livello globale, qui si parla di una prima globalizzazione, che ha funzionato perché questo sistema consentiva questi scambi. Sembrava il mondo perfetto, poi è arrivata la Prima Guerra Mondiale e ha fatto saltare tutto. Ecco, lì le cose poi hanno cominciato a funzionare decisamente meno bene, in mezzo c'è stata anche la Grande Depressione che ha fatto saltare, no, la crisi degli anni 30, che ha fatto saltare gli equilibri economici, e la Seconda Guerra Mondiale, e questo sistema che sembrava funzionare bene in un periodo di crescita, quando invece le economie entrano in crisi non funziona più. E allora, dopo la Seconda Guerra Mondiale, si trova un sistema diverso, che è un sistema che non vede più al centro l'oro per le singole valute, ma il dollaro. Il sistema che caratterizzerà il sistema monetario internazionale dopo la Seconda Guerra Mondiale vedrà al centro del mondo economico occidentale il dollaro. Tutte le valute avevano un tasso di cambio fisso col dollaro, e il dollaro era l'unico che doveva convertire il suo valore in oro. Da qui l'importanza di Fort Knox, no? Fort Knox era il deposito dell'oro americano, e qualcuno di voi magari ha visto un vecchio film di 007 che si chiama Goldfinger, dove Goldfinger vuole prendersi Fort Knox perché sa che prendendosi quello avrebbe il controllo di tutta l'economia mondiale. Allora, questa cosa gli americani la fanno perché? Perché sono effettivamente la prima potenza economica mondiale, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale erano la potenza economica di gran lunga più forte a livello globale, ma anche per un ovvio scopo politico, no? Legare la valuta al dollaro significa creare un'area politica forte, che nel contesto della guerra fredda aveva un ruolo importante. Ma anche gli americani non ce la fanno più ad un certo punto. Gli anni 70 cominciano ad entrare in crisi, perché ci sono già negli anni 60 dei segnali importanti da questo punto di vista. Nel frattempo si sono riprese le altre economie uscite dalla guerra, quindi l'economia germanica, per esempio quella giapponese, cominciano a essere competitive a livello globale, e gli americani cominciano ad avere spese importanti. La guerra del Vietnam, per esempio, che costa moltissimo agli americani, ma dall'altra parte anche le scelte di politica interna che fanno i governi democratici, prima Kennedy e Lyndon Johnson dopo, che, cosa nuova per l'America, spingono verso un sistema di welfare più generoso rispetto a prima, e questo significa spesa pubblica in aumento. A un certo punto gli americani non ce la fanno più e sono costretti ad abbandonare quel sistema lì proprio all'inizio degli anni 70, e lì i cambi cominciano a fluttuare, comincia a esserci una situazione di incertezza che poi vedremo sarà uno degli elementi della inflazione degli anni 70. Ma prima di questo voglio farvi vedere questo grafico qui, perché questo ci racconta che l'inflazione era possibile anche prima. Questo è quello che succede a Roma. Roma, un sistema politico ed economico straordinario che ha raggiunto livelli di sofisticazione notevoli su un'area amplissima. Pensate che l'80% della popolazione dell'Unione Europea oggi vive in territori che erano parte dell'Impero Romano, insomma, nel periodo di sua massima espansione, quindi veramente una realtà decisamente importante. Quello che vedete qui però è un processo inflattivo di lungo periodo. Su questa curva vedete rappresentate la percentuale di metallo prezioso che c'era all'interno del denario, cioè della moneta fondamentale di Roma. E vedete che questa percentuale inizialmente era alta, era vicina al 100%, era attorno al 90-95%, e poi col tempo però ha conosciuto una decrescita importante, riducendosi fin sotto al 50, arrivando poi nel III secolo, quando Roma conosce una crisi importante, circa al 30%. Perché questa cosa? Perché i governanti avevano bisogno di più soldi, quindi usando una quantità di metallo prezioso calante stampavano, coniavano anzi una grande quantità di moneta per finanziare le guerre, per finanziare l'apparato amministrativo diventato sempre più importante, e questo porta a una svalutazione della moneta nel tempo. Questa è inflazione sostanzialmente, un'inflazione che il governo utilizza per finanziare la propria spesa pubblica. Quindi il valore sul denaro è sempre quello che è stampato, però in realtà che è coniato sopra, però in realtà la sua capacità, il suo potere d'acquisto cala decisamente nel tempo. Allora, questo invece, questo che volevo farvi vedere qui, è il sistema del gold standard, quello che vi dicevo, no? Che nasce nel Regno Unito nel 1816 e poi dopo vede l'adesione graduale di tutti gli altri paesi, la Germania nel 1871, l'Italia ci entra di fatto nel 1878 e poi tutti gli altri paesi che partecipano a questa unione. Questa cosa funziona piuttosto bene perché, appunto, vi dicevo, è garantita dalla disponibilità di oro. E vedete però che questo è il grafico delle estrazioni di oro a livello globale, e vedete però che sulla fine del Novecento, insomma, si faticava a estrarre oro per risolvere questo problema. In realtà poi, insomma, alla fine il sistema funziona abbastanza bene, e tuttora le banche centrali mondiali hanno nelle proprie cantine, nei propri caveau, una quantità d'oro piuttosto consistente, che rappresenta ancora oggi una garanzia di stabilità del sistema. E se noi andiamo a vedere la classifica dei paesi per riserve auree, troviamo al terzo posto l'Italia. Questa è una cosa che può risultarci sorprendente, no? Però in realtà l'Italia ha una riserva auree decisamente importante. Questo rappresenta una riserva auree che ogni tanto qualche politico si sogna di liquidare per dire: ah, con questa riusciamo a coprire, no, i bisogni del debito pubblico. Ma Banca d'Italia difende questa cosa con le unghie e coi denti, perché dice: quella rappresenta una garanzia nei confronti degli investitori internazionali. Noi abbiamo un debito pubblico elevato, ma abbiamo anche una riserva d'oro molto consistente. Sì, Stati Uniti prima, poi la Germania, poi l'Italia prima della Francia, ecco. Quindi insomma l'Italia ha una riserva piuttosto consistente che rappresenta questa garanzia di cui sappiamo magari poco, però che è un elemento che gli investitori a livello internazionale conoscono bene. Allora, questo gold standard però salta con la Prima Guerra Mondiale. Perché? Perché la Prima Guerra Mondiale è una guerra terribile, una guerra che assume dimensioni che non si sono mai conosciute in precedenza e richiede una spesa enorme da parte degli Stati. Kaiser Guglielmo diceva: sì, la guerra entro Natale saremo tutti a casa, no? Quando è cominciata la guerra. Lui pensava al Natale del 1914, in realtà sarebbe stato il Natale del 1918, insomma, sarebbero passati molti anni, e anni che avrebbero spremuto a fondo le risorse dei diversi paesi. Questo significa che gli Stati dovevano trovare risorse per finanziare una guerra che è una guerra industriale, una guerra che si combatte con milioni di soldati al fronte, che hanno bisogno di una grande quantità di attrezzature sempre più complesse, sempre più costose da produrre. Quindi una guerra che si gioca anche sulla tecnologia, sulla disponibilità di tecnologia da parte degli eserciti. Questa guerra costringe gli Stati a spremere a fondo le risorse delle proprie economie. E una delle strategie che vengono utilizzate è quella di stampare carta moneta. È chiaro che se io stampo carta moneta non posso più garantire la conversione in oro di questa carta moneta qui. E allora si amplia, si gonfia a dismisura la quantità di monete che ci sono all'interno del sistema, e questo porta inevitabilmente a una inflazione molto pesante che colpisce tutti gli stati, vincitori e vinti, perché alla fine della prima guerra mondiale tutti conoscono un processo inflattivo, sia chi ha vinto sia chi ha perso. Dal punto di vista economico la prima guerra mondiale è stato un pessimo affare per tutti, no? Al di là della, ovviamente, del tributo in termini di vite umane, distruzione eccetera eccetera, ma dal punto di vista economico sia vincitori che sconfitti hanno pagato pesantemente i costi di questa guerra. Chi ha pagato più di tutti è stata la Germania alla fine. Perché? Perché la Germania non soltanto aveva utilizzato ampiamente la stampa di moneta per finanziarsi durante la guerra, ma poi subisce anche, no, le pesanti restrizioni della pace di Versailles, che impongono alla Germania di pagare riparazioni molto pesanti, un errore gravissimo che hanno fatto i governanti europei dopo la prima guerra mondiale, no? Oggi la pace di Versailles viene studiata come un modello di come non si deve risolvere una situazione, perché hanno fatto tutti gli errori che si potevano fare, no? Allora, uno fondamentale è stato quello di caricare un peso economico, ma non solo economico, ma anche morale, pesante su un paese di grandi dimensioni come la Germania, e quel carico è un carico che avrebbe alimentato in Germania un forte risentimento che, combinato poi con il malessere economico, avrebbe favorito l'ascesa del nazionalsocialismo con tutte le cose che sarebbero venute dopo. Quindi questo errore è stato un errore gravissimo. E qui vediamo che per pagare le riparazioni, a un certo punto la Germania non ce la fa più, comincia a stampare carta moneta, e questo porta a un'inflazione terribile nel corso del 1923. Vedete, questo era il valore di un marco di carta espresso in marchi d'oro. Nel 1918 erano simili, no? Un marco di carta valeva più o meno un marco d'oro. Ecco, nel autunno del 1923 un marco di carta, cioè un marco d'oro, scusate, vale 1 bilione di marchi di carta. Cos'è 1 bilione di marchi di carta? Un bilione di marchi di carta sono 1.000 miliardi. Quindi io nel giro, appunto, vedete, di 5 anni ho un'inflazione che ha portato da un qualcosa che valeva 1 a qualcosa che invece vale 1.000 miliardi. È stata una perdita di valore terribile da parte della moneta, che ha colpito duramente tutti, no? Guardate questa signora che con quello che gli viene pagato come pensione accende il forno perché non può farci altro. Allora, quando succede una cosa così all'interno di un sistema economico, le conseguenze sociali, politiche, economiche sono gravissime. Alla fine qua in Germania intervengono anche le potenze straniere poi per riequilibrare le cose, perché il timore era che la Germania andasse incontro a un destino simile a quello della Russia bolscevica. Il problema era quello, no? Si temeva anche un andamento in direzione di una rivoluzione, quindi si è intervenuti per stabilizzare le cose. Allora, dopo la Seconda Guerra Mondiale, questi errori che sono stati fatti non si fanno più. E qui succede una delle cose che raramente succedono nella storia, che effettivamente si impara dagli errori che erano stati fatti. Il sistema monetario che viene messo in piedi, e il sistema anche delle relazioni economiche internazionali, è un sistema che si basa sulla cooperazione internazionale. E vengono istituite anche delle istituzioni che servono a garantire la stabilità dei cambi delle monete a livello globale. Queste istituzioni sono sostanzialmente la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale, no? Che conosciamo noi oggi anche, e che sono degli organismi internazionali che intervengono quando un paese si trova in difficoltà. Poi sappiamo che non intervengono gratis, no? Che pretendono spesso delle politiche di aggiustamento in questi paesi piuttosto pesanti, ma la logica è quella di impedire che ci siano degli squilibri troppo pesanti all'interno del sistema e di aiutare i paesi che si trovano in difficoltà, perché c'è la percezione che il sistema economico globale funziona come una catena, che se un anello si spezza all'interno di questa catena anche tutti gli altri paesi poi si trovano in difficoltà. E in effetti questo sistema funziona abbastanza bene fino, vi dicevo, agli anni 70, quando questo insieme di fattori a cui facevo cenno in precedenza, quindi guerra del Vietnam, maggiore competitività da parte degli altri paesi, crescita della spesa pubblica, costringono Nixon ad abbandonare il sistema di Bretton Woods, il dollar standard. Sceglie, non a caso, domenica 15 agosto 1971 per fare il suo annuncio in televisione. Quindi una domenica d'agosto, i mercati sono chiusi, e l'impatto di questo annuncio sarà meno forte di quello che sarebbe in un giorno normale, in un altro mese, e quindi in quel momento, da quel momento in poi i cambi cominciano a fluttuare, il dollaro perde la sua centralità. E siamo arrivati a 50 anni fa. Ci sono una serie di ricorrenze curiose con la data odierna, 2023. Abbiamo visto, 1923 è stato l'anno dell'iperinflazione in Germania. 1973, 50 anni fa, è stato un anno di inflazioni importantissime. La prima, questa è una vicenda poco conosciuta, se ne è parlato recentemente per varie questioni, c'è stato, si è ricordato il colpo di Stato che c'è stato in Cile nel settembre del 1973 con la caduta del governo di Allende, la morte di Allende, si è ricordato anche in occasione della vittoria della Coppa Davis da parte dell'Italia, perché l'ultima Coppa Davis che era stata vinta, l'unica che era stata vinta in precedenza, è stata vinta proprio contro il Cile, con Panatta e gli altri che erano andati a giocare in Cile, con una grande polemica perché all'epoca il Cile era appunto sotto la dittatura di Pinochet. Allora adesso, chiaramente quello che dico non ha nessuna intenzione di giustificare il colpo di Stato, però una cosa che si sa poco è che il Cile sotto Allende ha conosciuto un crollo economico terribile, nel senso che Allende, che è andato al governo con una maggioranza molto risicata, aveva circa un punto percentuale in più nell'altro partito, arrivava al 36%, ma grazie al sistema cileno riesce ad andare al potere, attua una politica economica radicale, coerente con i principi che lui aveva sostenuto. La sua idea era quella di creare un sistema di tipo socialista in Cile, applica queste cose, ma aumenta enormemente la spesa pubblica, nazionalizza le imprese, e questa cosa causa un'inflazione terribile in Cile. Vedete, questo è l'andamento dell'inflazione in Cile, e guardate che cosa succede nel periodo degli Allende. Inizialmente le cose vanno bene, ma poi successivamente si arriva ad avere un'inflazione del 1400%. Cosa significa questa cosa? È difficile da concepire, ma c'è un episodio, un aneddoto che ci spiega cosa significava l'inflazione. Allora, l'aneddoto è che i lavoratori nelle miniere del rame, il Cile è stato il più grande esportatore di rame per un lungo periodo, si facevano pagare il salario a metà giornata, andavano ai cancelli, davano il salario alle mogli che aspettavano fuori, perché se si fossero fatti pagare a fine giornata il salario avrebbe avuto un valore minore. Cioè nel corso della giornata i prezzi continuavano a salire. Ecco, è chiaro che un sistema economico che così non può funzionare. E questo aveva creato una situazione di malcontento che, insomma, aveva minato alle basi la stabilità del sistema cileno. Poi il colpo di Stato ovviamente ha avuto anche altre motivazioni, ci sono stati altri fattori, però è chiaro che una situazione di inflazione di questo genere è una situazione incompatibile con un sistema in equilibrio, con una situazione politica stabile. Poi nello stesso anno arriva un'altra coincidenza storica curiosa, la guerra dello Yom Kippur, una guerra arabo-israeliana. Guerra arabo-israeliana come oggi, oggi è un po' diversa perché i paesi arabi non partecipano direttamente alla cosa, ma i paesi arabi, per sostenere la causa palestinese, utilizzano anche l'arma del petrolio, quindi aumentano i prezzi del petrolio. L'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio, l'OPEC, negli anni 70 aumenta i prezzi del petrolio. Adesso nella narrativa passa l'idea che questa cosa sia stata fatta essenzialmente in funzione politica contro Israele e i paesi occidentali che lo sostenevano. Poi in realtà c'è un altro motivo dietro anche, cioè il motivo era che il sistema di sfruttamento del petrolio, come si era consolidato nei decenni precedenti, era un sistema che andava molto a vantaggio delle compagnie petrolifere occidentali. Le sette sorelle, le grandi compagnie petrolifere americane avevano dei margini di guadagno molto elevati e pagavano dei diritti molto bassi ai paesi estrattori. Allora, questa occasione diventa anche una sorta di riscatto da parte dei paesi, giustificatissimo, no? Da parte dei paesi produttori di petrolio, che vogliono avere una percentuale più alta di questi diritti. È certo che però questo è un problema per i paesi occidentali, perché nel giro di pochi mesi il prezzo del petrolio sarebbe passato da 3 a 12 dollari. Pensate che appunto da ottobre a dicembre del 1973 il prezzo era salito da 3 a 11,65 dollari, quindi era quadruplicato sostanzialmente il prezzo del petrolio, e questo in una realtà che era fortemente dipendente dal petrolio, perché prima il prezzo del petrolio era molto basso, quindi tutto il sistema economico occidentale si basava su un ampio utilizzo del petrolio come materia prima energetica. Questa cosa inevitabilmente si riflette sui prezzi, e i meno giovani insomma qui si ricorderanno quello che significava questo negli anni 70. Insomma, il mio ricordo era che giocavo a pallone in via Druso, perché la domenica c'erano le targhe alterne, facevano girare solo le macchine con la targa pari e con la targa dispari, ne giravano poche e noi potevamo giocare, noi bambini andavamo a giocare a calcio in via Druso, che era una cosa molto divertente. Certo che insomma questa cosa ha avuto un impatto molto forte in realtà sul benessere nazionale. Pensate, agli anni 70 sono anche un periodo poi di forti tensioni sociali, pensiamo al terrorismo, pensiamo insomma a quello che è successo, che vengono peggiorati poi nel 1979 da una seconda crisi petrolifera legata alla rivoluzione comunista in Iran, altro grande paese produttore di petrolio, e che con questa rivoluzione poi assume il controllo delle risorse sul proprio territorio e quindi porta a un ulteriore aumento dei prezzi. Quelle cose vanno male, vedete, questo è l'andamento dei prezzi petroliferi nel tempo, qua sono gli anni 50 e questo è l'andamento poi nel tempo, questi sono gli shock petroliferi degli anni 70, poi qua il prezzo del petrolio è cresciuto anche di più successivamente, ma qui in un contesto molto diverso, qui era la domanda della Cina soprattutto che lo tirava su, ma questo è il periodo appunto che vi ho descritto, come, dove vedete il salto insomma che c'è stato in poco tempo del prezzo del petrolio, che ha causato questi gravi problemi di inflazione a livello globale, che hanno avuto come conseguenza quella di cambiare la politica sia in America che in Europa in modo importante. Hanno riportato al potere partiti conservatori che erano contrari all'utilizzo di denaro per la spesa pubblica, che hanno portato a privatizzazioni importanti, e non è un caso che Thatcher nel Regno Unito e Reagan si affermino in questo periodo qua, con ricette che erano profondamente diverse da quelle che sono state affermate in precedenza. Quindi abbiamo anche un mutamento culturale importante nella politica. Arriviamo all'inflazione di oggi. No, abbiamo visto l'inflazione del passato e l'inflazione odierna. Questo è l'andamento dell'inflazione in Italia su base annua dagli anni 50 ad oggi. Qui vediamo l'inflazione degli anni 70, vedete quanto era elevata, si è arrivati fino al 25%, e questa è l'inflazione attuale, una sorta di tempesta perfetta se vogliamo, perché qui dentro troviamo tutte le cause di inflazione possibili immaginabili. Oggi troviamo un'inflazione da domanda, perché è aumentata la domanda dopo la pandemia, mi dicevo. Troviamo un'inflazione da costi, perché abbiamo la guerra in Ucraina che ha portato all'aumento dei costi delle materie prime. E abbiamo un'inflazione da moneta, perché i governi e le autorità economiche, la Banca Centrale Europea, la Fed americana, negli anni passati hanno usato largamente lo strumento monetario per tenere sostenute le economie, quindi c'è un sacco di moneta in giro, no? Queste cose combinate fra di loro hanno contribuito a tenere alta l'inflazione. La verità è però che questa cosa adesso si sta lentamente sgonfiando e che non ha avuto quell'impatto così devastante. I costi ci sono stati anche pesanti se vogliamo, ma sicuramente non ha avuto l'impatto devastante che ha avuto negli anni 70, perché oggi sappiamo maneggiarlo un po' meglio questa cosa, no? Le autorità monetarie e gli economisti in parte sono anche più bravi a gestire questa situazione, quindi si è riusciti a far rientrare l'inflazione, però a costo appunto di alzare molto i tassi di interesse, e con effetti come quelli di Benko, come quello del fatto che chi di voi ha un mutuo insomma si trova a pagare oggi molto più di quanto pagasse in precedenza, non è sicuramente stato un rientro a costo zero. Voglio concludere brevemente facendo riferimento a quella ricerca che avevo fatto, che vi dicevo, perché questa è abbastanza istruttiva di quello che succede quando si utilizza la moneta in modo scriteriato e del legame profondo che c'è fra dimensione politica e dimensione monetaria. Allora, noi abbiamo fatto questo studio mettendo a confronto l'Italia, l'Austria-Ungheria durante la prima guerra mondiale, per vedere questi due paesi che si sono scontrati tra di loro, che sono stati anche due paesi che hanno conosciuto un'inflazione importante durante la guerra e alla fine della guerra, e poi come ne sono usciti, no? E un aspetto che accomuna anche l'Italia e l'Austria-Ungheria è che erano i due paesi più deboli, scusate, all'interno delle rispettive coalizioni. Vedete? L'Italia, questo è il livello del PIL pro capite che avevano i due paesi, e all'interno delle coalizioni, quindi, no, la triplice intesa, Regno Unito, Francia, Italia, e l'alleanza poi tra Germania e Austria-Ungheria, da cui l'Italia è uscita, erano i paesi che avevano il PIL pro capite più basso. L'Austria conoscerà durante la guerra un crollo drammatico della propria economia. Alla fine Germania e Austria perdono la prima guerra mondiale non tanto per questioni strategiche e militari, quanto per il fatto che le economie collassano, non sono più in grado di sostenere lo sforzo bellico al fronte. Ci sono queste relazioni scritte da ufficiali italiani dopo Vittorio Veneto che catturano soldati austriaci, austro-ungarici, e li trovano smagriti, denutriti, in condizioni igieniche terribili. Dicono: come ha fatto a combattere questi fino adesso? Questo era il risultato del fatto che il sistema economico che stava dietro non era più capace di sostenere lo sforzo bellico. Questo si vede qui. L'Italia riesce a mantenere un livello di produzione elevato, l'Austria-Ungheria, vedete, crolla drammaticamente. E per sostenere questa cosa, gli austriaci cosa hanno fatto? A un certo punto hanno cominciato a stampare moneta. Questo è l'andamento dell'Austria, della stampa di moneta, vedete, questo è l'andamento dell'Italia. E continuando a stampare moneta per cercare di tenere il passo di questa cosa, la moneta si è svalutata drammaticamente. Mentre in Italia, alla fine della guerra, questa cosa è rientrata, vedete che qua, no, con la fine della guerra, qua siamo 1919, poi non si stampa più e si riduce la quantità di moneta, in Austria invece si continua a stampare moneta ancora in quantità crescente. E questo perché? Perché l'Austria si trovava in una condizione terribile, era saltato il vecchio impero, ci si ritrovava con una piccola repubblica che aveva perso una parte importante del proprio spazio economico, una repubblica all'interno della quale c'erano anche delle fortissime tensioni politiche, c'erano movimenti estremisti di destra e di sinistra che si scontravano militarmente, c'era una situazione drammatica dell'ordine pubblico, e allora per cercare di attutire gli effetti quello che si fa è stampare moneta per garantire un minimo di welfare. Però questa cosa porta a una crescita dei prezzi al consumo enorme, a una perdita assoluta di valore della moneta che perde totalmente di significato in Austria. Anche qui c'è il timore che le cose vadano male dal punto di vista politico, interviene la Società delle Nazioni, che è l'antenata dell'ONU, e con un piano d'aiuti e stabilizza la moneta in Austria, ma con un costo molto molto elevato. Insomma, qui è stato il fallimento dello Stato sostanzialmente che ha portato a questa situazione. Mentre in Italia è uscita vincitrice, tutto sommato lo Stato è rimasto solido e riesce a garantire una prospettiva ai propri cittadini, in Austria questa cosa non c'è più. Non c'è più fiducia nel funzionamento del sistema politico, e il fatto che il sistema politico non sia più garante del valore della moneta fa sì che questa cosa vada fuori controllo. E questo aspetto è ricordato molto bene in un passo di un libro che io trovo bellissimo, che è Il mondo di ieri, di Welt von gestern, di Stefan Zweig, che è un libro che meglio di qualunque altro, forse ci sono i romanzi di Josef Roth da questo punto di vista, racconta però qual era la percezione di chi aveva vissuto l'impero austro-ungarico prima e chi ha vissuto poi il dramma della guerra. E c'è un passaggio in questa sua autobiografia che lui scrive pochi mesi prima di suicidarsi, perché si porta dietro questo fardello terribile, in cui parla proprio della valuta, no? Dice: la nostra valuta, la corona austriaca, circolava in pezzi d'oro brillanti, e in questo modo rappresentava anche la propria immutabilità, no? La propria immutabilità, la garanzia di quello che rappresentava. Ognuno sapeva quanto possedeva o quanto gli spettava, cos'era permesso e cos'era vietato. Tutto aveva una norma, tutto aveva una misura, tutto aveva un peso, no? Questa idea di sicurezza rappresentata anche dalla valuta, che poi dopo invece crolla drammaticamente con la guerra. E qui la dimensione politica, storica, e la dimensione economica, insomma, si uniscono. E in questo passaggio, in questo poeta, forse troviamo rappresentata meglio di qualunque analisi economica qual è il significato e qual è il rischio dei processi inflattivi. Bene, grazie per l'attenzione. se ci sono domande sono a vostra disposizione. Cominciamo qua. Avrei due domande. La prima, cioè, la mia impressione è che l'inflazione sia anche legata a lotte sociali, insomma, agli equilibri, ai mutamenti di equilibri interni a una società. Insomma, comunque, la prima è: tra le inflazioni ci dovrebbero essere anche quelle inventate, come è successo in Italia quando c'è il passaggio dalla lira all'euro. Non c'era nessun motivo perché aumentassero i prezzi, perché i prezzi esterni erano gli stessi, gli stipendi gli stessi, eppure abbiamo avuto una fiammata di inflazione. Evidentemente qualcuno ha approfittato del cambio, quindi la perdita di sensibilità dei prezzi per alzare i propri prezzi e quindi incamerare più ricchezza rispetto agli altri, immagino. Ma ecco. Un'altra su questa inflazione indotta, diciamo, tipo aumento del prezzo del petrolio, quadruplicato. Ah, io mi sono sempre chiesto, però non ho trovato la risposta, quanto incide l'aumento del costo del barile sui prezzi, perché il costo del trasporto rimane invariato, il costo di raffinazione rimane invariato, rimane solo il prezzo del petrolio che aumenta. Se non si aumentassero moltiplicativamente anche tutti gli altri, che sono in fondo ingiustificati, perché se uno vuol guadagnare una certa somma per trasportare una petroliera, perché deve guadagnare il quadruplo perché è aumentato il prezzo del petrolio? La petroliera come la rimette? Con il prezzo del petrolio, ma solo con quello. Ma dietro c'è molta speculazione, secondo me. Perché alla pompa di benzina, se un barile di petrolio si raddoppia come prezzo, alla pompa di benzina di quanto dobbiamo aumentare la benzina? Di pochissimo. Tenendo conto che gli altri costi sono fissi, invece aumenta di molto. Quindi praticamente sono speculazioni dietro, ma chiedo perché non ho una risposta. Grazie. Non funziona? Ah sì, no, va. Allora, sì, allora, questo succede sempre. Quando c'è l'inflazione, quello che succede è quello che vi dicevo, cioè che saltano i sistemi di riferimento. L'uomo della strada, come me, come te, perde un po' il controllo, no, su quello che è il valore reale dei prezzi. Noi tra l'altro tendiamo sempre a essere in ritardo, no, nell'aggiornare la nostra visione del mondo. A lungo abbiamo ancora ragionato in lire anche quando c'era l'euro, questo spesso, no, succedeva. E questa cosa qui gli speculatori la sanno benissimo, no, e ne approfittano. Quando ci sono questi cambiamenti in cui non c'è più certezza del valore, si gioca su questa cosa, ed è quello che è successo in effetti col passaggio dalla lira all'euro, che i prezzi sono stati arrotondati da chi poteva farlo verso l'alto, no, per guadagnarci. Poi dopo è arrivato anche l'aggiustamento dei redditi, ma ci è voluto un po' di tempo, no, per questa cosa qui. E poi sempre quando ci sono questi passaggi comunque ci sono dei vincitori e dei vinti, no, e si lasciano morti e feriti sul campo, insomma questa cosa succede. Però di solito sono fenomeni di breve e medio periodo, perché poi dopo, quando c'è una percezione piena, le forze sociali rientrano in contrattazione, eccetera, di solito si riesce a contrattare un riequilibrio, anche se c'è sempre qualcuno comunque che alla fine risulta perdente in questi processi. Per quanto invece riguarda il prezzo, il prezzo del petrolio è stato un caso particolare, perché lì effettivamente il fatto che dalla fine della seconda guerra mondiale fino agli anni 70 il prezzo del petrolio era stato bassissimo, questo aveva fatto sì che tutte le economie occidentali fossero le economie fortemente dipendenti dal petrolio. La produzione di energia elettrica veniva fatta in gran parte usando petrolio, cioè le centrali termoelettriche, anche l'Italia produceva energia elettrica in quel modo, non soltanto, perché la nostra energia idroelettrica è preziosa, quella che viene dalle nostre montagne, ma copre solo una parte minoritaria, tra l'altro, della domanda che in quel periodo era in forte in crescita, e al sud in particolare, no? Ecco che quindi si utilizzava moltissimo petrolio. È vero che il costo della materia prima è solo una componente del costo finale. Tra l'altro il costo della benzina, lo sappiamo, è composto da gran parte da tasse, no? Da accise che noi paghiamo allo Stato. Però se il prezzo della componente base aumenta di 4 volte, è inevitabile che il prezzo finale cresca in maniera significativa. L'effetto positivo di questa vicenda è che è stato, da quel momento in poi, questo è stato un fortissimo incentivo a studiare innovazioni in ambito energetico, no? a ridurre la dipendenza del petrolio. Se noi confrontiamo una macchina degli anni 70, degli anni 60 e degli anni 70 con automobili di oggi, a parità di cilindrate, insomma, abbiamo potenze molto maggiori con un consumo molto minore. Questo è il frutto degli effetti di quello che è successo allora, e questo vale anche per la produzione di energia. Insomma, sono dei processi che poi portano a degli aggiustamenti. Poi è chiaro che nel breve periodo queste cose che dicevi tu succedono sicuramente. Buonasera. Volevo chiedere, di fronte a questa instabilità politica e anche monetaria, non è il caso forse di avvicinarsi alle proposte dei paesi del BRICS di cambiare il valore al quale monetario al quale si fa riferimento, in quanto il dollaro, che è rappresentato dagli Stati Uniti, non ha più il valore degli anni 45-50, che forse magari, come viene richiesto dalla Cina, dalla Russia e Brasile, adesso l'Argentina sembra che abbia cambiato idea comunque. Sì, sì. Il caso dell'Argentina è un altro caso legato, no, agli effetti dell'inflazione. Perché che forse fatto... sono cambiati i sistemi monetari. No, l'osservazione è giusta, nel senso che gli equilibri... Oggi siamo passati a una situazione di un mondo multipolare, no? In cui ci sono nuove potenze emergenti, la Cina è la più importante sicuramente da queste, che rivendicano giustamente anche un ruolo diverso all'interno del sistema monetario. Resta il problema però di quale sia l'alternativa concreta. Allora, Bretton Woods, quando si trattava di definire quale sarebbe stata la base monetaria che avrebbe caratterizzato il mondo occidentale, no, dopo la Seconda Guerra Mondiale, c'hanno due opinioni in realtà. Una era quella rappresentata da Keynes, che era il più grande economista dell'epoca, aveva un prestigio straordinario, e lui diceva: dobbiamo fare una moneta artificiale. Una moneta che viene, il cui valore viene stabilito da un consesso di banchieri ed economisti che fanno dei calcoli e razionalmente stabiliscono questa moneta. Doveva chiamarsi Bancor e doveva esserci una banca centrale mondiale che stabiliva il valore di questa moneta. Ecco, dal punto di vista della teoria economica, un'idea perfetta, che ha il problema però che è un'idea astratta, no? Dietro la quale non c'è un sistema economico reale capace di garantire il valore di questa moneta. Ed è anche quello il motivo per cui alla fine si è affermato il dollaro. Il dollaro esiste, c'è un'economia forte, aveva un sistema politico all'epoca fortissimo e quindi rappresentava la garanzia reale che quella moneta avrebbe potuto costituire la base del sistema. Il problema di oggi è: cosa può sostituire il dollaro? Siamo in grado di creare una moneta alternativa? Siamo capaci di trovare un consenso a livello globale per trovare una moneta che possa essere alternativa rispetto al dollaro? Questa è la prima domanda. La seconda domanda è se vale la pena farlo, perché poi gestire questa moneta diventa difficile nel momento in cui poi gli interessi sono interessi divergenti. Quello che succede è che si creano poi delle aree valutarie magari in cui circolano monete anche diverse rispetto al dollaro, vengono riconosciute, però gli operatori alla fine quello che vogliono è avere in mano una moneta relativamente sicura, no? Che sia franco svizzero, che sia il dollaro, che sia la sterlina o l'euro in parte, insomma quello che il mercato chiede è una moneta che sia sicura. La politica riesce a pilotare queste cose, ma può farlo solo in misura relativa. Nel momento in cui la Cina avrà una solidità finanziaria tale da poter essere, ma anche una affidabilità politica tale da poter essere un riferimento per i paesi dell'area, e gli operatori cominceranno a usare la moneta cinese, beh, quello significherà che in quel momento si afferma un nuovo sistema monetario, ma che questa cosa possa essere scelta, decisa dall'alto, insomma, mi sembra non impossibile, perché dal punto di vista razionale è possibile, ma storicamente, insomma, sono esperimenti che sono andati piuttosto male, no? Anche l'euro, noi sappiamo, l'euro in realtà ha dietro un sistema politico, ha dietro un sistema economico reale, però ha causato degli aggiustamenti molto importanti, perché è una moneta che è stata costruita con un processo politico che ha messo insieme paesi che hanno in realtà dietro economie diverse, e queste tensioni, insomma, si sono viste in qualche modo. Quindi la rivendicazione da parte dei BRICS è una rivendicazione legittima, però la trovo difficile, insomma, da applicare nel contesto attuale. Allora, il problema della Cina è che la Cina deve risolvere la tensione che ha fra un'economia che in parte è già un'economia di mercato e un sistema politico che è un sistema ancora di tipo fortemente accentrato. E questo in realtà fa sì che ci siano dei forti contrasti. Per esempio, il settore finanziario cinese è un settore inintellegibile. Le banche cinesi sono banche che hanno delle caratteristiche patrimoniali che sono lontanissime da quelle del sistema europeo. Io non so come è fatto il bilancio di una banca cinese. La banca cinese funziona in modo molto diverso rispetto a una banca giapponese o americana o europea. E se io non ho un sistema finanziario, cioè non ho delle istituzioni finanziarie come le banche, che rispondono a caratteristiche di trasparenza nei bilanci, poi quanto effettivamente trasparenti sono i bilanci anche delle nostre banche, questa è una questione, però che diano delle garanzie di solidità finanziaria, quel sistema lì non può garantire una moneta stabile, no? Alla lunga. Infatti questo è un problema che in Cina c'è, magari ci si arriverà, ma la Cina deve recuperare un lungo ritardo che ha alle spalle, che è quello di un sistema che ha funzionato con logiche diverse fino ad oggi. E se, insomma, il Partito Comunista Cinese non molla un po' anche da quel punto di vista lì, non apre un po' anche il sistema bancario a forme organizzative diverse rispetto a quelle che ha attuato fino adesso, è difficile, no, che possano affermarsi delle banche che rispondano a quelli che sono gli standard attualmente richiesti a livello planetario. Infatti la Cina attualmente è in grossa difficoltà da questo punto di vista, no? Sta passando un periodo di forte incertezza. Bene. Sì. Però devi parlare nel microfono perché... Senta. Questo continuo rialzo dei tassi, no, delle banche centrali, che dovrebbe combattere in teoria più l'inflazione da costi che non da domanda, no, come diceva lei, perché mentre è intuitivo che combattere l'inflazione da domanda vuol dire appunto rialzando i tassi, quindi limitando il consumo, eccetera, più difficile è capire come fa a combattere l'inflazione da costi di materie prime, eccetera. Sì, la domanda è corretta, poi lei è un uomo di banca per cui le cose le sa bene. La domanda è corretta, ma qui è l'unica manovra possibile, nel senso che i banchieri centrali sanno benissimo che è vero che con questo io non riesco a risolvere tutte le cause dell'inflazione, è vero però che se alzo i tassi tolgo moneta dal sistema e questo mi porta ad abbassare i prezzi, indipendentemente dalle cause che ci sono. È chiaro che questo comporta dei costi sociali, non lo sappiamo benissimo che questa cosa succede, ma è l'unico strumento testato che ha funzionato in passato. No, negli anni 70 l'inflazione è stata alta perché ci ha messo un po' a capire che quella era la politica giusta da attuare, no? Ci è voluto un cambiamento culturale sia nella testa degli economisti sia nella testa dei banchieri centrali e dei governi, no? Si è dovuto arrivare all'idea che io non posso continuare a finanziare spesa pubblica e spesa stampando moneta. Cioè l'Italia ci ha messo un po' di tempo. Nel 1981 l'Italia ha deciso che la Banca d'Italia doveva separarsi dal governo. Fino al 1981 tutto il deficit pubblico veniva finanziato dalla Banca d'Italia. La Banca d'Italia stampava moneta a richiesta del Ministero del Tesoro. Nel 1981 si è deciso di divorziare, cioè la Banca d'Italia non era più tenuta a stampare moneta per coprire il deficit. E questo è stato uno dei fattori che ha permesso con una certa difficoltà di rientrare da questa situazione. Però il rialzo dei tassi, che comporta ovviamente una riduzione della moneta in circolazione, è l'unico strumento operativo applicabile in tempi brevi e con risultati evidenti. Poi, altre cose, per risolvere l'inflazione da costi io posso fare altre cose, ma questo richiede un cambiamento tecnologico che richiede tempi più lunghi, chiaramente, no? E questi tempi lunghi sono costosi dal punto di vista politico, mentre invece sui tassi riesco a giocare un po' meglio. Prego. No, forse sento anche se il paniere dell'Istat, secondo lei, è oggettivo? Incide, perché quello poi, quando sì, ci arrivano fatture così, c'è sempre un aumento... No, questa è un'ottima domanda ed è una questione costantemente dibattuta. È molto politica, forse anche. Sì, è molto politica, ma allora, se noi guardiamo, tra l'altro anche tra Eurostat e Istat ci sono delle differenze, no, nella costruzione del paniere, che dipendono dal fatto che ci sono realtà politiche un po' diverse dietro. Però dal punto di vista statistico è l'unica soluzione che c'è, cioè, ognuno, in realtà ognuno di noi che siamo qua dentro, saremo in 20, ognuno di noi ha una percezione dell'inflazione diversa, che dipende dal fatto che consumiamo cose diverse, che abbiamo uno stipendio che è calcolato, un reddito che è calcolato in modi diversi, che abbiamo, non abbiamo un mutuo, siamo in affitto, ognuno ha una percezione diversa. Il paniere è una finzione statistica, ma è l'unica modalità che ci consente in qualche modo di avere una media dell'inflazione, sapendo che quella però è una finzione che serve per avere un termine di paragone, insomma. Stavi nicchiando, Bruno. Chiedo scusa, ma mi è venuto in mente di una persona che ha fatto parte della commissione del paniere, che mi raccontava che avevano messo tra i vari oggetti per i quali misurare l'inflazione il passaverdure. C'è roba che uno lo compra una volta nella vita. E allora conveniva alle aziende produrlo e venderlo perdendoci piuttosto che far salire l'indice di inflazione. Sì, beh, ma fino a pochi anni fa nel paniere dell'Istat c'erano le nazionali senza filtro. Allora, le nazionali senza filtro, la sigaretta che fumava mio papà, ma da quello che so io sono scomparso dalla circolazione da mo, però sono rimaste dentro, per dire, no, ci sono queste cose. Però è chiaro che è uno strumento tecnico che non potrebbe essere costruito diversamente, oppure è difficile costruire diversamente, ecco. Bisogna essere, quello che è chiaro è che quando io utilizzo questa misura qui, devo sapere che è fatta in quel modo lì, cioè che non è rappresentativa di quella che è la percezione di tutti, no? È solo un riferimento medio che serve per fare questi confronti. Poi tutti noi viviamo l'inflazione in modo diverso, insomma. Bene. Salutiamo Andrea Bonoldi. C'è ancora una domanda? No. Volevo ricordare che abbiamo i libri di Andrea Bonoldi in biblioteca. Quello di cui ha parlato purtroppo era in prestito, non l'abbiamo potuto esporre, però se volete vedere gli altri, poi c'è anche qualche cosa sull'inflazione. Beh, il fatto che sia in prestito vuol dire che qualcuno lo legge, mi fa già piacere. Sì, io l'ho messo in prenotazione alla biblioteca sperando rientrasse, purtroppo niente da fare. Va bene, allora grazie.